mondo. Sembra sano, ma qui devi stare attento. Nessuno ti tende la mano senza contante, anche se delle tue fatiche ne fai tante. Sei uno schiavo di tutto il mondo circostante. Su questa base mi trovi ruvido e struggente. L'amaro di quanto mi ha distrutto questa gente. Ricordati che non ha senso tutto ciò che scrivo. Come cadmo nel racconto tutto ciò che vivo. La gente si uccide per un pezzo di pane. Il politico con i nostri soldi va puttane. E l'Italia dei non valori, questo è il partito. È rotto il cazzo, io me ne sono partito. La soluzione a tutto questo che vedi non c'è. Soprattutto finché c'è questa gente. E perché siamo figli di nessuno in questa terra. Faccia sfatta e sporca della stessa terra. Mi hanno detto che ero un semplice fallito, ma purtroppo sono qui e quindi ti ho tradito. Guardati le spalle quando sei tra la gente. Fidati di te perché tutto intorno mente. Trovi una soubrette che vende un telefonino e tu che ti spacchi il culo ogni mattino. Ma questa è l'Italia dei mille disoccupati. Trovi tanti ma davvero tanti disagiati. Qui non fanno niente per un futuro migliore. E io depresso qui che cerco un'occasione. Ormai ho mail sparse per il mondo e magari ti snobano in un secondo. Per fare questo CD mi sono spaccato il culo, perché ho perso il lavoro per via di qualcuno. E non sono un fallito perché è roba mia. Tu prova a scrivere nella condizione mia. Posso per certo no, ascolti questa canzone e non pensare che sia un semplice coglione. Con sacrificio porto avanti ogni mio testo. Rams ti lascia il dito meglio come gesto. La soluzione a tutto questo che vedi non c'è. Soprattutto finché c'è questa gente. E perché siamo figli di nessuno in questa terra. Faccia sfatta e sporca della stessa terra. Mi hanno detto che ero un semplice fallito, ma purtroppo sono qui e quindi ti ho tradito. Guardati le spalle quando sei tra la gente. Fidati di te perché tutto intorno mente. Perdi la casa perché non la puoi più pagare. E un politico ha la casa senza pagare. Ma purtroppo in questa vita non siamo nessuno. Ti passerò avanti sempre figlio di qualcuno. La meritocrazia è un sogno in questa città. E tu lo sai meglio di me che questa è realtà. Non ti lamentare se trovi le caculo. Stronzi che per il successo danno il culo. Macchine di lusso in giro e tu non sai perché. Lì dentro c'è chi ha venduto tutto di sé. Donne fitte come una bambola di Creta. Tipo che senza soldi si spacca crepa. Si vendono di tutto anche la dignità. Come Mosè però profeti di falsità. Dimenticava chi si sente già arrivato. E dimmi se te lo sei meritato. La soluzione a tutto questo che vedi non c'è.